Antonio, voto Antonio, voto Antonio, italiani! Voto Antonio, come la rete cambia la politica, di Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno e benvenuti a Voto Antonio, la trasmissione con la quale ogni settimana cerchiamo di raccontarvi, ci proviamo come sempre, poi vediamo se ci si riesce, come la rete cambia la politica, come voi potete cambiare la politica con la rete, se potete farlo naturalmente. Che cosa faremo questa settimana? Beh, insomma, oltre al consueto punto di Stefano Folli, con Stefano Folli parleremo tra poco di tutti gli eventi politici di questa settimana, o almeno di quelli centrali. Nella seconda parte della trasmissione, innanzitutto con i nostri amici di Voices from the Blogs, come sempre andremo, che ci presentano come sempre una ricerca, andremo a vedere questa settimana, qual è la popolarità su Twitter dei ministri del governo Letta nei primi 50 giorni. Ci sono alcuni elementi interessanti che riguardano tra l'altro lo stesso Presidente del Consiglio e il suo Vice Premier, ossia Angelino Alfano. E poi andremo ad approfondire, a cercare anche di tirare le fila di tante cose che ci siamo raccontati in questi mesi, da quando è partita la trasmissione in settembre, sul tema proprio appunto del ruolo che la rete inizia ad avere nella politica e nella partecipazione. Lo facciamo in occasione, lo faremo perché è stato presentato nell'ambito del mese del sociale organizzato dal Censis un bel rapporto, un rapporto molto interessante dove ci sono molti elementi, si parla della situazione dei media, naturalmente del consumo da parte dei media degli italiani, però ci sono anche molti riferimenti appunto a quanto i social network, internet abbiano modificato in qualche misura il modo di agire politico degli italiani. Ne emergono elementi interessanti, tra cui il fatto che in realtà il mito che poi la rete porti lo stare in rete, il partecipare politicamente in rete porti ad una partecipazione politica effettiva, è un mito, a quanto pare, almeno secondo il Censis, infondato. Voto Antonio, come la rete cambia la politica. Ed eccoci in questa seconda parte di Voto Antonio. Come sempre, questo è il momento di fare il punto politico della settimana con Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. Stefano, buongiorno e buon Buongiorno Simone, buongiorno. sabato come sempre. Allora, inizierei come sempre dallo stato di questo governo, poi naturalmente verremo alle vicende giudiziarie di Berlusconi, però insomma anche ieri a 9 in punto ne abbiamo parlato con Susanna Camusso. Insomma, è un po' lentino questo esecutivo, Stefano. Ma sai, ce lo stiamo dicendo già da qualche settimana e in effetti non è che le cose siano troppo migliorate. A questo passo, che dipende più che altro secondo me da un grado abbastanza modesto, diciamo, di coesione interna alla maggioranza. C'è la maggioranza, ci sono le larghe intese, grosso modo non c'è nessuno che in questo momento ha la voglia o la convenienza a farle saltare, però poi non c'è tutta questa convinzione, non c'è tutta questa convinzione e di conseguenza poi le iniziative sono quello che sono. Sono iniziative più tipiche di un governo un po' di ordinaria amministrazione, non di una grande coalizione che dovrebbe mettere proprio il cuore oltre l'ostacolo. Naturalmente, dovrebbe essere qualcosa di diverso. Qualcosa di eccezionale. Su questo può pesare naturalmente su quello che succederà all'esecutivo anche la vicenda personale e giudiziaria di Silvio Berlusconi. In settimana abbiamo visto la sentenza della Consulta, lui è sembrato abbastanza tranquillo, in realtà gli uomini del PDL mica tanto, no? Perché insomma. Allora, lì è una pentola in ebollizione permanente, naturalmente, però io credo che questo nervosismo sia soprattutto, diciamo, dei colonnelli cosiddetti del PDL. Berlusconi li lascia fare, vuole anzi che ci sia questo manifesto nervosismo da parte dei suoi uomini, perché questo manda un messaggio a chi di dovere. Tuttavia lui personalmente, vedi, estremamente cauto, estremamente attento a non dire una parola di troppo. Anche il giudizio sulla sentenza della consulta è stato abbastanza misurato per i toni berlusconiani, no? Ha detto è una prova dell'accanimento giudiziario nei miei confronti. Insomma, c'è una strategia difensiva, mi sembra molto evidente che è una strategia di sobrietà. Ed è, io credo, non ho un'informazione diretta, ma insomma presumo che sia dettata dal professor Coppi, che è il difensore di Berlusconi presso la Corte di Cassazione, perché è lì che si gioca la vera partita. Naturalmente. E per arrivare alla Corte di Cassazione bisogna arrivarci tenendo ben distinte la sfera giudiziaria dalla sfera politica. Naturalmente. E nel frattempo, però, appunto, queste uscite degli uomini del PDL gli consentono anche di tenere un po' sulla corda questo esecutivo, no? Certo. Se è così, sarà così nelle prossime settimane. Insomma, io penso che Enrico Letta debba avere anche un po' più coraggio, perché sapendo che ci sarà questa frenesia da parte del PDL, lo terranno sotto tiro per la questione dell'IMU, dell'IVA, e insomma deve cercare di prendere lui la leadership forte del governo e indicare lui quali sono le prossime tappe, saper lui parlare al paese. È l'unico modo per assorbire e contenere anche il nervosismo dei soci della coalizione. Un fatto che naturalmente serve al paese, ma deve servire anche a lui, al suo futuro politico evidentemente. No, abbiamo detto proprio qua in questa sede, parlando in Voto Antonio, insomma si diceva, potrebbe essere un discreto concorrente per Matteo Renzi e Enrico Letta, anche come figura politica, e quindi, come dire, è in gioco anche forse il suo futuro politico all'interno del Partito Democratico adesso, e quindi prendere la leadership gli converrebbe anche per questo, dico. Sì, più dubbio, c'è anche una partita dentro il centrosinistra, eletta per età, per serietà personale, per professionalità, è in grado di giocare bene le sue carte. Chi vede invece una qualche difficoltà è proprio Matteo Renzi, che è molto abile, è un comunicatore, è simpatico, eccetera, però è un po', diciamo, un'opera incompiuta per adesso. O Renzi si decide e prende in mano il Partito Democratico senza mettere troppe riserve, fare troppi distinguo, oppure rischia che passi un po' il suo momento. E invece un uomo così, un uomo di comunicazione come lui, deve stare sempre un po' sulla cresta dell'onda. Se comincia a scendere giù nel vano dell'onda, poi non è così facile ritornare poi in cima. Naturalmente. E poi ci sono le vicende del Movimento 5 Stelle, che sono, direi, interessanti, insomma, anche dal punto di vista, se vogliamo, di quello che poi è l'oggetto di questa trasmissione. Poi ne parleremo più avanti, appunto, nel corso della trasmissione. L'espulsione anche con il voto in rete, no, della senatrice Gambaro, e pezzi di 5 Stelle che iniziano ad allontanarsi dal gruppo principale. E un Bersani che ritorna, no, in parte in gioco, e dice è ancora possibile il governo del cambiamento, abbiamo letto in queste sette. Non ci credo proprio che sia possibile un governo del cambiamento, non ci credo neanche a una scissione in grande stile del movimento di Grillo. Credo che si siano infilati in una brutta storia fatta di settarismo, di imposizioni, intimidazioni, di espulsioni, una brutta storia che nasconde insomma una propensione politica troppo debole, ecco, per riuscire ad articolarsi bene sul piano istituzionale. C'è un deficit di cultura politica che sta venendo fuori. Mi ha molto colpito per esempio l'uscita del presidente della commissione di vigilanza sulla RAI, no? Che è uno di Grillo, Fico, il quale ha preso una posizione di mero conservatorismo, una posizione volta a dire assolutamente non si deve pensare di vendere un canale RAI ai privati, non si deve pensare di smantellare la RAI. Insomma, ci si aspetta qualcosa di più da un movimento che pretende di essere alternativo al sistema politico, al sistema dei partiti, e invece qui abbiamo una riproposizione proprio dell'impianto mentale e della posizione politica tipica dei partiti che hanno occupato la RAI per tanti anni. Insomma, c'è molto da fare per dare un senso politico al movimento di Grillo e forse non ci si riesce, quindi avremo uno stillicidio di uscite e rese di conti che però non determinano, a mio avviso, la nascita di una forza riformatrice con cui si possa davvero immaginare una nuova alleanza di governo. Allora, io so già che su Facebook e su Twitter mi massacreranno per quello che hai appena detto, perché sono molto attivi naturalmente in rete gli attivisti del Movimento 5 Stelle, e mi massacreranno per quello che sto per dire. La cosa peggiore forse per il Movimento 5 Stelle in questo momento è che è riuscito a dare l'impressione, proprio loro che venivano fuori dal palazzo e che volevano proporre, insomma, le soluzioni concrete, insomma, guardare al futuro del paese, sono quelli che in questo momento stanno guardando al loro ombelico con maggiore intensità, addirittura più del PD e del PDL, che al loro interno hanno anche loro dei problemi, no? Ma insomma, invece di irritarsi per le critiche, mettono questa energia a servizio di una politica chiara, di proposte politiche concrete e lungimiranti, coraggiose. Sono fanno loro che hanno avuto il 25% di un voto sostanzialmente antisistema, chi lo deve fare? Irritarsi con i giornalisti è la cosa più stupida. Quello che si deve fare è cercare di restituire all'elettorato il senso che il voto è stato speso bene. Invece, siccome vedere i sondaggi, sono in caduta libera e i 5 Stelle stanno cadendo da tutte le parti, perché evidentemente il loro stesso elettorato, non noi cattivi giornalisti critici, ma il loro stesso elettorato è totalmente scontento come vanno le cose. Ah no, ma è colpa comunque di noi giornalisti, Stefano, perché siamo noi che li rappresentiamo male, cioè, questo evidentemente è troppo comodo. Lo so. Va bene. Grazie Stefano, buona giornata. Buona domenica, ciao. Grazie a Stefano Folli. Noi adesso ci fermiamo come sempre per una pausa, poi ci ritroveremo come sempre le analisi che realizza Voices from the Blogs, in questo caso un report in esclusiva per noi che è sul grado di popolarità su Twitter dei ministri del governo Letta. C'è qualche sorpresa interessante, vi dico solo che in cima alla classifica e con una crescita esponenziale c'è un ministro tecnico, e in fondo alla classifica con una decrescita esponenziale c'è un altro ministro tecnico. Italiani! Vota Antonio. Come la rete cambia la politica. Ed eccoci di nuovo, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, come sempre all'inizio di questa seconda parte coinvolgiamo gli amici di Voices from the Blogs. Ve lo ricordo, è un progetto dell'Università Statale di Milano che si occupa di fatto di analisi della rete, di analisi del sentiment della rete. È un sistema, per così dire, misto, che non si basa solamente su un algoritmo ma prevede l'intervento umano, proprio perché a volte no, le parole che possiamo trovare in un tweet o per esempio in uno status su Facebook possono essere fraintese dall'algoritmo, mentre invece l'intervento umano permette di correggere. E questa settimana parliamo del gradimento su Twitter dei ministri del governo Letta. Giuseppe Porro, docente all'Università dell'Insubria e che partecipa al progetto Voices from the Blogs, parte del progetto Voices from the Blogs. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, una cancellieri superstar veramente. Allora, il 13 maggio, quando l'ultima misurazione che abbiamo fatto, tra l'altro ne abbiamo parlato in Voto Antonio, un gradimento al 75,1%, adesso al 92,9%, praticamente plebiscitaria, come mai? Sta raggiungendo percentuali bulgare, credo che viva ancora sull'onda lunga del gradimento maturato durante il precedente governo tecnico, è sicuramente il ministro di gran lunga più apprezzato. Io invece non mi spiego questo Franceschini, che anche lui un più 17,3% al 74%. Abbiamo monitorato un una serie di ministri, non tutti, sì. Li abbiamo scelti con il criterio di individuare quelli che all'inizio del governo Letta sembravano essere quelli che per ragioni politiche, cioè all'interno del peso, che per il peso che avevano all'interno del proprio partito o per il dicastero ricoperto, promettevano di essere quelli più esposti mediaticamente. Diciamo che Franceschini in realtà nell'azione di governo, dal punto di vista della visibilità, è attualmente marginale, infatti i tweet che ne parlano sono piuttosto pochi. Sì. Chi ne parla però ne parla bene, insomma, e quindi il suo gradimento è aumentato, è cresciuto dal 56% al 74%. Vi ho detto prima, c'è un ministro tecnico che è al top, e lo abbiamo detto, è la Cancellieri. E vi ho detto anche, c'è un ministro tecnico invece che ha subito un vero e proprio tracollo, e naturalmente è quello che si occupa di economia, no? Sì, in realtà entrambi i ministri che occupano di dicasteri economici di cui ci siamo occupati, sia il ministro Saccomanni sia il ministro dello sviluppo economico Zanonato, hanno registrato una flessione nel gradimento. Saccomanni addirittura del 19% circa, si ferma a un gradimento del 36,4%, Zanonato scende di 12 punti e si ferma al 56%, che comunque rimane uno dei valori più alti dell'indice di gradimento. Quindi, insomma, comunque, diciamo così, un gradimento piuttosto alto, almeno per quanto riguarda Zanonato. Sì, Saccomanni al 36,4, quindi in realtà piuttosto basso e non lontano dal Presidente del Consiglio in realtà. Il Presidente del Consiglio ha registrato una flessione nel proprio consenso del oltre 9 punti percentuali, si ferma al 38,3. Se dobbiamo interpretare questo come una flessione del gradimento dell'intero governo, questo sarebbe la misura della flessione del gradimento registrata in quest'ultimo mese dal governo Letta. Se leggiamo il governo come composto da anime diverse, insomma il governo Letta-Alfano, come dice qualcuno, dobbiamo invece registrare che per quanto riguarda il vice premier Alfano il consenso è stabile, anzi cresce dell'1%, quindi ci sono all'interno delle anime che compongono questo governo delle differenziazioni in termini di gradimento della rete. Altro elemento interessante, quella che era la star della rete, per così dire, ossia Emma Bonino, anche lei registra una flessione notevole, un calo del 18,4%. Un calo molto forte in termini assoluti, appunto, il 18,4%, ma come ricordavi esattamente, Emma Bonino è uno dei personaggi più graditi alla rete. Quando abbiamo monitorato i presidenti della Repubblica che la rete avrebbe maggiormente apprezzato, la Bonino risultava vincente nella nostra classifica e partiva anche per questa ragione molto alta nel gradimento quando è stata inserita nel governo. Infatti nella rilevazione del 13 maggio risulta, se non dalle parti della Cancellieri, poco sotto al 68,7%. A questo punto credo risenta un po' della flessione, come dicevamo prima, che ha registrato l'intero governo. Si ferma al 50,3%, che comunque rimane, insieme al risultato di Zanonato, uno dei risultati più alti. Allora, abbiamo detto prima, scende Letta, sale Alfano. Secondo te la questione IVA-IMU ha qualcosa a che fare? Ma non vorrei dare un'interpretazione economicistica o troppo economicistica del dato, però dal mio punto di vista... Del resto professore di economia sei, quindi insomma, no? È un po' un vizio professionale, è inevitabile, e quindi sono portato a pensare che il fatto che il partito di Alfano abbia assunto una posizione pubblica anche più forte sul dichiararsi contrario all'aumento dell'IVA, alla rimozione dell'IMU, abbia in questa fase giocato la sua parte, in questo ribaltamento della posizione relativa del gradimento di Alfano rispetto a Letta. D'altro canto il sospetto è confermato dalla cattiva performance dei ministri economici, i quali hanno dovuto informarci l'uno del fatto che non c'erano le risorse per evitare l'aumento dell'IVA, l'altro, che è Saccomanni, è chiamato a compiere il miracolo di trovare in extremis queste risorse, ma pare che non riesca a farlo, e questo il suo peso in termini di reputazione, di consenso, di gradimento della rete inevitabilmente ce l'ha. Grazie, grazie anche per questa settimana. Vi do un ultimo dato, ma questo ve lo do io. Gaetano Quagliariello scende al 27,6% di gradimento con un calo del 12,7%. Paga probabilmente, insomma, la complicazione di queste riforme, il fatto che poi alla fine ci si è affidati a quei 35 saggi, che in realtà poi sono 42 perché ce ne sono altri 7 aggiuntivi e poi ce n'è uno che deve redigere, insomma, no, non è chiaro, però probabilmente paga questo. Grazie Giuseppe Porro e grazie a voi di Voices from the Blogs anche per questa settimana. Noi adesso cambiamo argomento, rimaniamo sempre su politica e rete. L'occasione è un rapporto presentato dal Censis per fare proprio il punto su tutto questo. Ed eccoci, adesso vogliamo partire per fare anche una riflessione nella quale tiriamo le fila di tante cose che ci siamo raccontati all'inizio dell'anno, da quando è partita questa trasmissione in settembre, e vogliamo farlo grazie ad una ricerca presentata dal Censis questa settimana in occasione del mese del sociale. Saluto Giuseppe Roma, che è direttore generale del Censis, buongiorno. Buongiorno. E ci accompagnerà in questa riflessione anche Sara Bentivegna, che è docente di teoria delle comunicazioni e media digitali all'Università La Sapienza di Roma. Buongiorno. Buongiorno a voi. Voglio partire, Roma, da questa riflessione che ho trovato molto interessante e che troveranno, secondo me, molto interessante anche i frequentatori dei social network. Allora, parlate di un passaggio da una democrazia del consenso a una democrazia dell'opinione. Riesce a spiegarcela semplicemente questa cosa? Ma il discorso è molto semplice. La democrazia del consenso era una democrazia basata anche su meccanismi più complessi, gruppi, sindacati che si definivano a partiti e che riuscivano a canalizzare istanze e interessi di tipo associativo nel momento politico, perché c'erano anche dei partiti più strutturati. La democrazia dell'opinione invece è tutta legata al singolo, alla persona. La persona che è in rete, la persona che guarda la televisione, e quindi l'obiettivo non è più di canalizzare interessi, ma l'obiettivo è quello di catturare l'attenzione, soprattutto mediatica, dell'elettore, di far passare dei messaggi forti che poi possono essere di natura diversa a seconda dei schieramenti politici, ma non più avere una base organizzativa, avere una base legata anche, se vogliamo, a problemi concreti, ma riuscire a dare un messaggio, riuscire a dare una comunicazione forte, per cui le opinioni si confrontano, le opinioni diventano il punto essenziale anche della comunicazione, per cui oggi noi abbiamo tanti giornali che vendono pochissimo, ma hanno un enorme potere di comunicazione, perché aprono il dibattito e realizzano un dibattito fra poche persone, ma sono magari le classi dirigenti. Paradossalmente, in questa democrazia delle opinioni, però, i nuovi media e anche tutto quello che noi oggi crediamo essere naturalmente il momento più reticolare, il momento della messa a rete delle opinioni di tutti, sono ancora battuti dalla televisione, perché poi nel fare opinione il martellante uso sia nei telegiornali sia nei talk show politici delle argomentazioni arriva a una platea molto più grande, arriva anche a una platea che talvolta è una platea passiva, tant'è vero che poi quando andiamo a votare tipo il Movimento 5 Stelle online parliamo di migliaia di persone, quando guardiamo l'ascolto dei talk show è di milioni di persone. Naturalmente, io adesso vorrei sentire da Sara Bentivegna se condivide questa lettura, questo passaggio appunto dalla democrazia del consenso alla democrazia dell'opinione, e anche capire se secondo lei la rete conta davvero così poco o se invece c'è un peso, e poi ne parliamo anche con Giuseppe Roma di questo, un peso che è forte perché innesca la stessa cosa che innescano i giornali, come diceva Roma, no? Cioè ci sono luoghi dove ci sono i cosiddetti opinion makers, e quindi questo poi ha un impatto sul dibattito pubblico, ha un impatto anche sulla decisione politica. Sicuramente, è vero il passaggio dall'opinione, appunto, dal consenso all'opinione. Io sento un ritorno strano, non so se disturba anche voi, comunque. La questione è che questo nuovo modo di vivere la comunicazione e anche di vivere il confronto sulle opinioni si salda strettamente la trasformazione della società tale per cui ormai siamo una società individualizzata. Quindi quello che poi veniva fuori dal discorso anche di Giuseppe Roma è che vengono a mancare o diventano più marginali gli agenti di mediazione, l'intermediazione, che una volta era appunto rappresentata da partiti, sindacati, organizzazioni, oggi invece questo si frammenta, si parcellizza. Tutti quanti in qualche modo abbiamo appunto, diventiamo mediatori noi stessi, e questo evidentemente la rete lo esalta, tant'è che appunto in rete appunto tutti i soggetti sono portatori di appunto opinioni che a volte vengono davvero buttate lì senza neanche aspettare confronti o reazioni. Da questo punto di vista si arriva ad una maggiore libertà di presa di parole, ma poi è anche vero che si arriva ad un grande caos, tant'è che in questo caos poi ci sono dei soggetti che si pongono come reintermediatori e quindi in qualche modo si ripresentano equilibri di potere, perlomeno sulla presa di parola e sulle opinioni più influenti, che sono diverse dal passato, ma non per questo meno potenti. Da questo punto di vista, quindi, sicuramente la rete è il luogo dove appunto tutti i soggetti possono prendere la parola, a prescindere poi appunto dalla competenza, validità o anche dal fatto che possono essere sentiti da molti soggetti. E nello stesso tempo però molto spesso si perde anche di vista il fatto che i soggetti che poi lì prendono la parola e lì sono anche a volte influenti, sono soggetti influenti su gruppi molto piccoli. Appunto, come dicevate, le Quirinali in realtà, non le Quirinali, anche il voto adesso per l'espulsione della Gambaro, la rete ha votato, non diciamo sciocchezze, hanno votato gli iscritti al Movimento 5 Stelle, neanche tutti, una parte, e quindi sono pochi soggetti che però acquisiscono una visibilità, una centralità poi nel discorso pubblico, che è sicuramente un elemento di grande novità e che nel passato non si dava in questi termini. Allora, io su questo ci voglio tornare, abbiamo una pausa perché questo è un tema che abbiamo già affrontato quando si è votato per l'elezione del Presidente della Repubblica. Abbiamo raccontato e notato quanto forse anche internet, la rete, Twitter, i social network possano aver avuto un impatto più che altro sulla non elezione di Marini o sulla non elezione con quei numeri soprattutto. Italiani! Vota Antonio, come la rete cambia la politica. Insomma, avete sentito quello che diceva Sara Bentivegna. A questo punto io ricoinvolgo Giuseppe Roma, perché poi questo è un ragionamento che fate anche nella vostra ricerca, no? Quelle di cui parlava Sara Bentivegna sono le minoranze intense, no? Se non ho capito male, Roma. Sì, perché è chiaro che il meccanismo delle minoranze è un meccanismo che rafforza la propria presenza, proprio perché sono molto coese all'interno, e anche se non sono maggioranza nell'opinione, però rappresentano un punto di vista che si impone con forza. Ma si impone con forza dove? Sui media di massa, la televisione, la radio e persino il passaparola, perché poi noi abbiamo visto che nelle ultime elezioni è chiaro che i social network, che la rete ha un'influenza, perché è un campo aperto dove tutte le opinioni sono accettate e quindi in qualche modo arrivano anche alle persone, agli elettori, opinioni talvolta singolari che possono catturare anche una scelta di voto. Però poi abbiamo visto che la rete è quello che influenza meno rispetto, ripeto, al passaparola, alla televisione e alla radio. E anche se vogliamo l'utilizzo politico della rete, fin quando resta all'interno del circuito di internet, ha una sua forza di gruppo, ma quando diventa elemento politico, quando la rete dei 5 Stelle fa notizia sui quotidiani, fa notizia in televisione, quando la rete della Primavera Araba diventa lo strumento proiettato sui media di tutto il mondo, cioè ancora oggi l'uso della rete, un uso molto televisivo, un uso molto di media tradizionale, tra l'altro, mentre se si se si rinchiude in se stesso, è un effetto che c'è, ma c'è in piccoli gruppi sociali, o in gruppi sociali abbastanza estesi, ma non di milioni di persone. E questo lo si vede anche dal fatto che poi è chiaro che siamo congregati in rete in maniera molto differenziata, i giovani moltissimo, gli adulti un po' meno, gli anziani per nulla, e quindi anche questo influenza la capacità poi di coagulare consenso. Tra l'altro nella ricerca voi trovate che non c'è correlazione tra questa presunta maggiore partecipazione politica in rete e poi un effetto pratico, cioè magari più gente che va a votare, insomma, cioè la partecipazione politica in rete non si traduce poi in una partecipazione reale, da quel che ho capito. Beh, d'altronde abbiamo avuto, ripeto, un impatto molto forte sulla politica e sui partiti, ma poi abbiamo invece partecipazione alle elezioni quantomeno non direttamente correlata. In fin dei conti la rete serve più fra un'elezione e l'altra che non alle elezioni. Bentivegna concorda con quest'ultima affermazione, che mi sembra interessante. Secondo me c'è una cosa che va detta, è che noi a volte facciamo, per semplificare un po' il discorso, una sorta di confusione tra partecipazione e comunicazione. In rete si comunica molto, si parla anche di politica, ma poi il passaggio successivo, che è quello di partecipare però quella non è mi scusi Bentivegna, non è automatico. Mi scusi Bentivegna, ma mi scusi, in Italia ma non solo, quindi probabilmente noi dovremmo anche iniziare davvero a distinguere con maggior nettezza tra persone che parlano, che appunto si impegnano in discussioni di politica offline e online, ma che poi il passaggio da questo interesse, che sicuramente è un prerequisito ma non è sufficiente, alla partecipazione politica è da un po' più complesso, e quindi da questo punto di vista si vedono questi scollamenti oppure queste mancate correlazioni, come sottolineava Giuseppe Roma. Quello che volevo capire in realtà sempre da lei, ma questo modo di agire in rete non è anche quella partecipazione? Perché io la interpreto, certo, personalmente come una forma di partecipazione, in tutta sincerità. Però non è che automaticamente porta al voto, questo. E quindi noi possiamo avere tante persone che sono impegnate in conversazioni sulla politica, ma questo non vuol dire che poi quelle stesse persone andranno a votare. Questo è lo scarto, è questo. Sicuramente la partecipazione, la comunicazione comunque è un prerequisito per partecipare, perché altrimenti non si dà partecipazione, ovviamente. Naturalmente. E allora, per andare a chiudere su tutto questo discorso, io volevo ritornare un attimo alla questione delle minoranze intense, per così dire, e che però alla fine qualche effetto politico lo generano, al di là del Movimento 5 Stelle. Si citava il caso della non elezione di Marini. Insomma, secondo la vostra lettura, Roma, ha giocato la rete in questo caso? Cioè, noi ci ritroviamo un Parlamento, naturalmente, che è stato ampiamente rinnovato, con molti giovani, e che sente evidentemente la pressione di chi partecipa in rete come la pressione del suo popolo, se vogliamo, no? come se fosse il proprio collegio, il collegio di una volta, il collegio elettorale di una volta. Guardi, io penso che la principale differenza e anche innovazione è che noi, esattamente, la rete cosa fa? Fa discutere, e quindi la discussione può portare certamente a anche una pressione d'opinione, no? Ma d'altronde ha semplicemente modernizzato l'uso del fax. Ci ricordiamo il popolo dei fax, arrivavano il i fax, popolo dei fax, e quel provvedimento si fermava. La rete è questo. Il problema è che la politica, oltre che a discussione, è anche azione. Questo è la vera differenza. Quindi io penso che le minoranze intense sono minoranze che possono anche dare luogo a degli effetti e degli impatti, come lo hanno avuto, insomma, possono bloccare l'elezione, possono danneggiare l'immagine di un politico, di una persona, poi bisogna vedere se è vero o non è falso. Altro è quella dimensione partecipativa che produce azioni e cambiamenti politici. Se ragioniamo in termini di cambiamenti di opinione, quindi nel corso di una decisione si blocca questo o quel candidato, si blocca questa o quella iniziativa, va bene, però altro è una partecipazione cosiddetta di massa che invece produce un cambiamento, e io penso che questo sia il punto centrale che non ci aiuta diciamo così, a uscire dai problemi di un paese come l'Italia, che invece ha bisogno di segnali forti di cambiamento, e questi segnali forti di cambiamento probabilmente si annacquano nella discussione e diventano semplicemente impatto forte quando c'è da prendersela con qualcuno, e quindi a questo punto bastano anche poche migliaia di persone che oppure fa circolare una notizia, vera o falsa che sia, e a quel punto blocca qualsiasi possibilità di decisione. Grazie, grazie a Giuseppe Roma, direttore generale del Censis, a Sara Bentivegna, docente di teoria delle comunicazioni e media digitali all'Università La Sapienza di Roma. Noi chiudiamo qui questa puntata di Voto Antonio. Se volete mi trovate su Twitter, Simone Spezia, c'è la nostra pagina Facebook, cercatela, Voto Antonio R24. Un ringraziamento a Gianmarco Ferronato in regia, un grazie come sempre a tutti voi per l'ascolto, Alessandro Marco Tulli in assistenza. Noi ci sentiamo naturalmente sabato prossimo. Italiani!